Su info salute e società punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana. Eccoci pronti per un nuovo appuntamento con Soinfo, la rubrica radiofonica settimanale che vi accompagna nell'approfondimento dei temi della salute della società, osservandoli con sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Continuando ad esplorare il tema della menopausa, affrontiamo oggi un problema caratteristico di questa fase della vita con cui molte donne devono confrontarsi, l'osteoporosi. Ringraziamo la dottoressa Manuela De Lazzari del reparto di prima medicina dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso che ci offre una panoramica su questa patologia. L'osteoporosi è un disordine scheletrico caratterizzato da una compromessa resistenza dell'osso che predispone quindi l'individuo a un maggior rischio di frattura. Per resistenza ossea noi intendiamo l'integrazione di densità ossea e di qualità dell'osso stesso. Questa è la definizione che noi abbiamo di osteoporosi approvata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e quella ormai in vigore dal 2001. Che cosa dire dell'osso? L'osso è un tessuto attivo, è lo scheletro è la nostra impalcatura di sostegno dell'intero organismo e il calcio ne costituisce la componente principale. L'osso continua in tutta la vita a rimodellarsi attraverso delle fasi continue di neoposizione, di riassorbimento. Cosa succede nelle varie fasi della vita? Durante l'accrescimento il processo ricostruttivo prevale su quello distruttivo fino al raggiungimento di quella che è il picco di massa ossea. Il picco di massa ossea è quello che l'individuo raggiunge verso i 30 anni di età ed è il valore massimo di massa ossea che una persona raggiunge. Dopo, a partire dai 35 anni, il processo distruttivo dell'osso tende a prevalere su quello ricostruttivo. Cosa succede con la menopausa? Con la menopausa viene meno lo stimolo dell'estrogeno. Gli estrogeni che non vengono più prodotti fanno sì che su questi due tipi di cellule prevalga quella che riassorbe l'osso senza che ne venga riformato in maniera adeguata, per cui si perde progressivamente massa ossea con la menopausa e si fa il calcolo che la perdita sia all'incirca in epoca perimenopausale del 5% all'anno. Questo fa sì che il soggetto andrà incontro al pericolo di quelle che sono le fratture, che è la complicanza maggiore dell'osteoporosi. Complicanza che nella menopausa interessa soprattutto l'osso trabecolare, cioè le ossa lunghe, quindi interessate dai problemi di fratture saranno soprattutto il collo del femore, il polso e i corpi vertebrali. Qual è il problema? Che spesso noi non riconosciamo quella che è magari una frattura vera e propria e quindi viene trascurata, passa come misconosciuta, non viene trattata e aumenta quindi il rischio di andare incontro a nuove fratture se noi non facciamo un trattamento adeguato per l'osteoporosi. Sarebbe utile fare una radiografia perché così una radiografia del rachide dorsale lombare scopriamo se siamo di fronte a una problematica di frattura vertebrale e riuscire a prendere i provvedimenti adeguati. Un passo indietro nel dire che cosa, che ci sono anche dei fattori di rischio per osteoporosi e per quindi di fratture. Ci sono quelli genetici e costituzionali, la nostra razza, la caucasica e la razza asiatica sono più soggette all'osteoporosi e quindi a rischio di frattura, così come ovviamente il sesso femminile, l'età, una menopausa precoce. Questi sono fattori su cui noi purtroppo possiamo fare ben poco. Esistono tuttavia tutti i fattori modificabili su cui è utile fare qualcosa. Una dieta con scarso apporto di calcio e di vitamina D, una sedentarietà, un'attività di tipo voluttuario, quindi un abuso magari di sostanze alcoliche o del fumo. Questi sono tutti fattori di rischio per il nostro osso. E quindi che cosa dovremo fare? Fare soprattutto quella che è la prevenzione dell'osteoporosi e quindi della frattura, che deve essere attuata a tutte le età, quindi già a cominciare dai nostri ragazzi, dai nostri bambini, curando un'alimentazione che deve essere ricca di calcio e di vitamina D, curando l'attività fisica nelle persone anziane a mantenersi attive, a mantenere un osso sano. Inoltre evitare l'assunzione di bevande alcoliche in eccesso e astenersi dal fumo. Soinfo, salute e società, punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2, marca trevigiana.